Respiro. Buon pomeriggio di Natale da Laura Bettini. Questa puntata inizia da qui. Noi siamo gestori di apparecchiature e di equipaggiamenti per la valorizzazione dei rifiuti, non siamo produttori di macchinari. Noi i macchinari li acquistiamo proprio per fare in modo di risolvere i problemi. E quando dalle comunità locali, cittadini piuttosto che tecnici o amministratori locali, ci viene segnalato questo disagio, cioè la preoccupazione circa il fatto che queste macchine siano effettivamente salubri, no? Sì. Ovviamente il nostro dovere è stato quello di andare ad indagare in modo aggiornato, preciso, approfondito, se effettivamente questo pericolo ci fosse. La persona che avete sentito è Daniele Fortini, il presidente di Federambiente, ovvero Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale, che ha commissionato una ricerca sulla salubrità dei termovalorizzatori a LIP, Laboratorio Energia e Ambiente di Piacenza, un laboratorio che ha lavorato sotto il coordinamento di docenti del Politecnico di Milano, delle Università di Parma e di Brescia. Allora, sentiamo da Fortini che cosa è emerso da questa ricerca. Userei proprio questa espressione, cioè è confortante, cioè rispetto alle preoccupazioni, ai timori, alle paure che ci potevano essere, che ci sono, come sappiamo, piuttosto diffuse, beh, i risultati ci confortano, nel senso che queste macchine, soprattutto le ultime generazioni di queste apparecchiature, sono assolutamente performanti, vale a dire che realizzano il loro compito in modo efficiente, cioè distruggono effettivamente i rifiuti, ne ricavano energia e nello stesso tempo rilasciano in atmosfera in modo impercettibile un inquinamento che è infinitesimalmente, questo termine, inferiore a quello procurato da qualunque altra sorgente di inquinamento, dalle automobili fino alle caldaie di riscaldamento, fino alle fabbriche o alle centrali elettriche. Insomma. Lei faceva riferimento ad impianti, diciamo soprattutto di ultima generazione. Noi in Italia come siamo messi a impianti? Vecchio stile? Nuovo stile? Beh, diciamo che tutti gli impianti sono costantemente aggiornati, perché la normativa impone, ovviamente, sia quella europea che quella nazionale, impone gli aggiornamenti. Tuttavia è evidente che impianti costruiti negli ultimi 5-6 anni, che ce ne sono in Italia, dei 51 attualmente in esercizio, una decina sono entrati in esercizio negli ultimi 6-7 anni, poi ne abbiamo una quota un po' più vecchia, che sono stati impianti quindi aggiornati nelle loro tecniche di funzionamento, sono circa un altro 30%, e poi invece abbiamo degli impianti vecchi su cui si è speso molto per metterli a posto, e che però sono piccoli e che invece meriterebbero una riconsiderazione. In buona sostanza, dei 51 impianti che attualmente funzionano in Italia, possiamo dire che 40-45 sono assolutamente adeguati, perché taluni di questi troppo piccoli rispetto all'efficienza e all'efficacia che si dovrebbe ottenere, e poi ce ne sono una decina sui quali invece occorre prestare attenzione, soprattutto al fine del loro miglioramento. C'è poi un aspetto che è quello della fiducia dei cittadini nei confronti di chi controlla, no, questi impianti. Ma intanto, quando parliamo di impianti che trattano rifiuti urbani, i controlli sono non solo rigorosi e severi, di più, nel senso che agiscono almeno 11 diverse autorità nel controllo di questi impianti, e la prima autorità ed importante è quella dei cittadini, perché ogni volta che si realizza un impianto, ovvero lo si mette in esercizio, immediatamente scatta un controllo sociale formidabile. Ma dentro questo poi ci sono 11 autorità differenti che intervengono nel controllare l'impianto, sia dal punto di vista delle emissioni, dal punto di vista delle scorie, dal punto di vista della sicurezza sul lavoro e quindi su tutta la filiera dell'impatto ambientale. La legge italiana è la più severa d'Europa, le leggi europee sono tra le più severe del mondo, oltre questo francamente non ci sentiamo di criticare. Poi la fiducia dei cittadini è un'altra cosa. La fiducia dei cittadini è verso questo tipo di impianti, o vale a dire verso chi li controlla, insomma siamo ai livelli della fiducia dei cittadini nelle istituzioni, nella politica, nello Stato, insomma c'è un sentimento generale di inquietudine diffusissima e che poi si traduce anche in questo. Però, ecco, così come non mi sentirei di dire che l'Italia è in mano ai rom, così nello stesso tempo non mi sentirei di dire che i problemi che attengono alla salute dei cittadini sono tutti pregiudicati o minacciati dalla presenza di 51 inceneritori di rifiuti. Questi punti salienti potete ovviamente trovare tutto ciò che vi può servire per soddisfare le vostre personali curiosità sul sito di Federambiente. Noi però abbiamo approfittato della presenza di Fortini ai nostri microfoni per affrontare con lui un altro tema caldo relativo alla spazzatura, all'immondizia di questi giorni, ovvero la situazione di Napoli. Perché specificamente con Fortini? Perché da 30 mesi, come specifica lui, Daniele Fortini è amministratore delegato di ASIA, ovvero l'azienda Servizi Igiene Ambientale di Napoli. Questa crisi, intanto ci dice subito Daniele Fortini, è ben diversa da quella del 2007. Perché? Tecnicamente l'emergenza non esiste. Nel 2007 non c'erano assolutamente discariche, tant'è che i rifiuti andavano in Germania, dovette venire il commissario straordinario Di Gennaro, capo della polizia, e aprire discariche. Quindi nel 2007 non c'era materialmente, fisicamente il luogo dove mettere i rifiuti e questo fu l'origine della crisi. Nel 2010 nella regione Campania invece i siti dove mettere i rifiuti ci sono e allora è inspiegabile l'emergenza, se non appunto con ragioni che non hanno nulla a che fare con la tecnica e con la materialità. Temo che si voglia mostrare la cartolina di Napoli di Capodanno, dove le televisioni, le radio e i giornali daranno conto del 2011 inaugurato a Sydney con i fuochi d'artificio, a Parigi con la Torre Eiffel illuminata, a Londra con il Tamigi solcato dalle barche illuminate e Napoli invece la montagna dei rifiuti. È un'immagine vergognosa alla quale ci potremmo sottrarre, perché ripeto 2000 tonnellate da terra si tolgono in 3 giorni, abbiamo una discarica che è a 32 chilometri dal centro della città, 32 chilometri, che è la discarica di Sant'Ammaro, sciaguratamente in provincia di Caserta, e la scelta fatta, quella unica al mondo, cioè di provincializzare la gestione dei rifiuti, sta determinando un braccio di ferro fra la regione, il comune di Napoli, la provincia di Napoli, la provincia di Caserta, per cui queste 2000 tonnellate di rifiuti devono stare a terra. Nella capitale del mezzogiorno d'Italia. Fortini si ricorda sempre che a Napoli il costo per lo smaltimento dei rifiuti è il più alto d'Italia a carico dei cittadini. Come mai? Non rivela niente di nuovo. Cioè, no, i sistemi inefficienti sono quelli più costosi. Nella regione Campania negli ultimi 16 anni si sono spesi 2 miliardi di euro per organizzare un moderno ciclo dei rifiuti. In realtà abbiamo una raccolta differenziata nella regione inferiore al 20%, non abbiamo un solo impianto di compostaggio per produrre risorsa dalla frazione organica dei rifiuti, abbiamo una totale insufficienza di impianti di termovalorizzazione, tant'è che ci sono 6 milioni di tonnellate di rifiuti secchi da bruciare ancora parcheggiati nelle aree di sosta della regione, quindi si sono spesi 2 miliardi di euro per consegnare oggi Napoli e la Campania ad una nuova emergenza. Allora, i sistemi che non funzionano sono i sistemi più costosi e di cui pagano le conseguenze i cittadini. Dunque, mi ha detto, le discariche ci sono, sia pur non nella provincia di Napoli, ma comunque ci sarebbero. Impianti invece per quanto riguarda il compostaggio, no? I famosi termovalorizzatori come viaggiano? Ce n'è uno che è quello di Acerra, sì, che adesso è tornato a funzionare su tutte e tre le linee. Potrà dare un contributo importante, perché si parla di 500.000 tonnellate bruciate ogni anno, resta il fatto però che è assolutamente insufficiente. Fingiamo di aver superato questa fase o comunque auguriamoci di superarla in breve tempo. Qual è il futuro della raccolta della spazzatura a Napoli? Ma guardi, noi abbiamo progetti ormai raffinatissimi, perché li abbiamo consolidati in mesi di approfondimenti e di valutazioni e di analisi critiche. Abbiamo progetti per portare la città di Napoli servita al con il sistema di porta a porta della raccolta differenziata al 100%, in modo tale da avere il 50% di raccolta differenziata di materia riciclabile. Per poter conseguire questo obiettivo abbiamo bisogno di 48 milioni di euro di investimenti per realizzare gli impianti di supporto, le isole ecologiche, i centri di raccolta, le aree di valorizzazione, le piattaforme di valorizzazione. Di questo non c'è niente di tutto questo per ora. E abbiamo bisogno di 24 milioni di euro all'anno di più, in più rispetto a quelle che spendiamo oggi per la raccolta, perché la raccolta differenziata porta a porta è più costosa. Gli inceneritori competono ad altri, l'impiantistica di valorizzazione di materia competono ad altri, abbiamo bisogno di tutto quello che è di supporto alle raccolte differenziate. Ci sono 150 milioni di euro che il decreto 196, quello che attualmente è in conversione alla Camera e che poi andrà al Senato, prevede 150 milioni di euro per il sostegno alle raccolte differenziate, sia per la parte impiantistica sia per la parte gestionale. Ecco, io mi auguro che questi soldi non finiscano nuovamente invece a pagare gli stipendi a tutto quel personale che è stato reclutato negli anni passati per fare la raccolta differenziata e che invece si è rivelato assolutamente inefficace come investimento. Nel caso, diciamo, arrivassero alla giusta destinazione, poi dopo Asia sarebbe in grado di gestirla senza assunzioni? Assolutamente sì. Io ho ancora fiducia e ancora energia, però occorre che questa storia finisca, perché non ha nessuna ragione per esistere. È tutto per questa puntata di Respiro. Di nuovo l'augurio di un buon Natale. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. A tutti voi un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.